questo sistema lì, quindi con col piombo, fate a triangolo, che se poi la metti, la crepava subito. Caro se non ti metteva i ballucci, quelli che si usava per giocare, la campana del globo, sentiva boom, non ti devi più menare. Una volta andavamo nel viale che c'è in questo piccolino, che si riempiva di uccelli, e prendeva un bel. Una volta ci ha visto questa ave in Arturia, non mi sighi, mi ha detto di uccelli, come mi vuole, una volta ti diceva, mi ricordo tutti a faccia. No, no, faccio di tutto già. Senti righette, uia. Stava avvicinante, là. Lì era un livello, molte volte capitava sulla ruccia, passava avanti di righette, era un pava, era una micidiale. Poi era andato via l'ugoso, l'umilino, era bravo, veramente bravo. Veramente bravo, anche un altro ragazzo che conosco, Manolo, ci chiamo. Chiamava di giù, si chiamava Tirighetta, perché era bravissimo. Andava a cacciare Tirighetta e lo tirava. Io lo stesso, anche a Tirighetta sono andato addirittura anche con la carabina. Con la carabina a funghi. Tirighetta, ma sei a più la tirava, se poi con la carabina. Ma ci devo abbassare di radio. Ho detto che prima usavo il tiralasso e cantinichetto e poi la carabina di quella funghetta. E vabbè, ci stava nostra lavoro lì. Ma anche cantici dei fucili, quei pali di piccoli. Facevano quello che c'era la cucitura nel. Ma che si chiama? Porta a pietra, dai, come lo puoi chiamare. La cucitura ai fianchi. E quasi, non dico, quasi pieno di come si chiama? Di piombo. Già andava, ecco, e insomma tempo mi già, giorno non capita, ti faccio vedere il segno che c'era la mano, e come prendevo la ghiaia, no, ma è troppo grande, ma dovevo attirare, perché stavo imparando, ma sono tre volte a mano, che dolore, guarda, uno di voi che mi ha già messo la mano, però non capita, ti faccio vedere il segno, la cicatrice che ho delle, quando usavo il tiralasso. Sì, io lo so, anche a me l'ha fatto meglio. Proprio dove c'è la parte carnosa del pollice, dai, alla fine del pollice li dividiamo. No, vabbè, diciamo, vabbè, non la mano, vabbè, dai, un po' di volte, sì. Ah, che dolore, guarda. Infatti, non devi piegare la mano, io non la piegavo, ci devi tenere dritta, dritta, dritta, dritta. Cioè, devi piegare verso sinistra, dai. Perché se la tenevi aperta così, cioè, tirarmi a mano. Ma che dolore Gianni, io con la ghiaia poi, mi ricordo di quei pezzi di ghiaia appuntita. Ma un dolore allucinante. E poi arrivo per poi, ma io lo così, dai. Andate, non è che ero bravo, però questo Marco che si è preso in Portogallo, ce l'ha già un po' di anni. Era bravissimo, non ti l'acqua, non ce n'ha per nessuno. Bottiglie, tappini, di tutto già. Prendo un tappino e mi dovevo parlare sempre noi dopo. E caro se lo so, mi devi stirare un tiralato per assustare, che fa poco di l'altro. Lo so. Però facendo il tiralato, lo stesso facendo il putigare, era bravissimo. No, la sala che scarpe lo facevo già. Dalle scarpe le polacchette, di quello con le polacchette che usavano prima. Io per quello non avevo problemi, c'era mio padre che era calzolaio e quindi gli fregavo la pelle. Poi diceva, chi è che ti ha detto la pelle di vitello? Quello sei tu. Io facevo da lì. Però si usavano a me con le scarpe. Si facevano il buco sotto. Poi si buttavano via, ma veniva benissimo. Veniva benissimo a fare da lì. Vabbè. Già mi divertivo già, già mi divertivo. Noi intanto ne scoprivamo una nuova, tipo il manubrio della bicicletta. Questo è che il tubo si può staccare, cioè il manubrio si può staccare, si rimane il tubo che va si trova la forcella. Sì, sì. Quello lì lo riempivamo di terra, poi non so se ti ricordi, se il bullone che va sotto, no, cosa succede? Erano due praticamente, quando tu andavi a stringere il bullone rimaneva fermo poi il tubo. Quello lì cosa facevamo noi? Ah, riempito di terra, messo il petardo quello rosso, poi mettevamo il bullone davanti e ci facevamo la pistola. Come sparava, pum, la porta della cabina. La micidiale, tutti mi pintavano. Tu, castrare un'unghiarina, vintenne. E le chiamavo con la pistola. Accorciato un po', c'era un altro più lungo. Poi, a battardo, il bullone, ciao, ti bacchia. È un bullone passante, dai. C'è un perno che chiude. No, il bullone, no, il bullone lungo, no, già, il dado, là, diciamo, che va sotto il tubo. E tu vai a stringere quel bullone lungo, poi va a finire dentro, no? Però quello non lo usavamo. Ma tenevamo il petardo e subito dopo, appoggiato così, lo tenevi così, tu non vuoi sparare, ma fa chi a razzo, E io abbiamo fatto anche noi queste cose, per carità. Era Carosello, lo chiamavamo Carosello perché ti vedeva più bimba, mi faceva tutti i colori. Non potevo vedere quelle cose sempre licciate, con i cani tutti quanti, con le treccine, di quei cani. E secondo me quelle donne prendeva l'ombrello, niente a fare il cane, l'ombrello, dietro. Quello lì correva che la tipa ha messo. Adesso ne racconto un'altra, questo tipo che adesso non abita più qua, era fuori di Cabuga, era fuori di testa, c'era questo gatto che ci faceva avvicinare, ci faceva prendere. Allora gli tu dimmi due, è stato un ballino, no, è andato a casa sua, ha preso uno di quei peperoni, il peperone, quello che si mette nella pasta, di quelli potenti, cazzo, dici, ti ammazzani, e non gli ha spiegato una serena questo gatto, mi l'ha tagliata, comincia a correre, un miserabalia. No, noi gli abbiamo attaccato la campanella a pesca, un gatto. Più correva, più sentivo il rumore, gli stava impazzendo, correva un bene, ma veloce. Si ritagliata, miau, mentre la potente era, un razzo, cazzo. E c'è la ciuma che aveva tenuta. Comaraccio. Sì, quando eravamo ragazzini, anche noi abbiamo combinato, se ci penso. Una volta Carosello andiamo alla stazione, visto che alla stazione c'erano sempre i picciuli. Carosello si chiama Ballucci, mi nomi, adesso ne lo butto. Pronti siete, boom, cazzo delle piume in alto, cazzo. Mi fa lo bizzone, se lo mette sotto il golfo. E si vede lì la polizia ferroviaria. E questo piccione gli stava battendo, e stare imbistigati i puliziotti. Ci hanno volato dentro dove ci sono quelle fotografie ricercate e cose, ci hanno preso un cognome tutti facili, l'abbiamo fatto, senza ne ci ha fatto. Beh, devi stare attento. E ma di volte noi ce l'abbiamo riscatta, la polizia passava sempre qua. E lì al via non ci è mai andato già. Dove? Al via, va, come si chiama? Al viale, poi c'era il depositore di tram prima. Ma dove aveva preso più vicino, si è sbattuto a faccia al coso. La guardia aveva tutto. Lì stavo dicendo, era qua. Lì, comunque lì, come di volte è capitato, lì i cazzo di uccelli c'erano passato, gli altri, un'insalata. Ma i busti, questo tipo sempre. Guarda la scena, quindi caricava piombini, allagava, tirava 4, 5, c'era, sì, la voce ne rampava. Io non so che Carosello era umilioso, vabbè, lui il padre era un campione di tiro a piattello anche. Sai chi è il cugino di quello che c'ha nel negozio di cartelle da degli anni e cose? Torino. Lo zio è quello che c'è nel negozio. Praticamente Carosello è il nipote di quello che c'ha l'Almeria, dai. No, ma Letta, se c'era Letta, quello c'era prima. Ah, non c'è più Letta, adesso c'è Urtu, Tonino ce l'ha. Ah, non lo sapevo. Vabbè, comunque Letta sì. Ce l'ha lui, da te stavi dicendo? Oh, ripeto un attimino, guarda che prendevo questo cacchio di golfo. Sta lì. Sì, stavo spegnendo il computer, via. Stavo dicendo in Corso Vico, il viale si chiama Corso Vico. Io già gliel'ho detto. Cosa dici così? Lì si calavano gli stoni. Sì, di tutto mi disopera un ricchio la sera. Ehi, ma gli stoni in gran numero. Riempiva tutti gli alberi che gli stoni. Le macchine le facevano a beffa. Certo, credo. Un po' di bombardamenti, che passavi in giro. Ma è da chi si può pagare, ma pugniamo su. Bisogna anche la destra. Bernardo ne aveva uno che si chiamava Peppino, di pappagallo, tipo quelli tuoi, tipo, ma con Coritta, era. L'aveva trovata, dove si è scappata qualcuno, si è portata a casa. Beh, questa coccolita è andata lì, gli apriva la gabbia, lo chiamava Peppino, lui diceva fuori, saltava sotto la spalla, lo accarezzava, era bravo, non beccava né niente. Poi prendeva e se lo metteva sul dito, anche per Paolo mi se lo mette sul dito suo. Ma da piccolo lo puoi fare, questi sono già grandi e non ce la fai a detrarli. Sono un po' selvatici, no? Un bel selvatico, mi ha mosso, ma ne cuto, tutti i canti, ma ne musicato. Attaccato, Pia. E come ha fatto a scappare? Cazzo, stavo guardando nel nido, cazzo, ne è uscita, cazzo, non è scappata. Bastarda, ma se vuoi sostituire la ciappalla. Cesso. E la voliera ci vuole, in campagna si può fare. E se ti crei uno spazio, te la butto delle furie, cose, come tipo quella voliera che c'era dove c'erano quei pappagalli a 300 euro. Ehi, me la faccio una voliera infatti. E in campagna non ci vuole nulla a fare. Basta prendere quella rete fina. Ehi, la struttura devi fare però. Ehi, la struttura va come ti va a gabbia il coniglio, la stessa cosa grande. Sì, la devo fare per forza. Almeno ci rimetto lì dentro e sei tranquillo. Io invece che metterci, cosa ti stavo dicendo? Ma fai quadrate invece che rotonde. Ma fai quadrate e via. E infatti. Qua c'è a farla. Non è che ci vogliamo molto. Basta idearla una. Sì, infatti. Pure con il legno la puoi fare la struttura. E fai due quadrati, uno sopra e uno sotto. E poi un legno che unisce i due quadrati, uno a un lato, uno all'altro, uno all'altro, uno all'altro, fai. E poi ci metti la rete sopra. Sì, infatti. Non è che ci vuole, non ci vorremmo ancora l'altro. Comunque, a me mi piace, una volta, non so cosa mi è successo a te, ho visto uno di quei pappagalli grandi che parlano tutti colorati, era rosso, verde, di tutti i colori, e si è calato a sopra un corpo, sopra una panchina, ma ho detto, che bello, fermi, andiamoci piano, ero con degli amici miei, da che lo prendiamo, e che quello fa sto caldito se ti becca, questo e quella. Mi sono avvicinato, e se ne è volato. Poi si stancava, no, volava un po' perché si stancava, ogni agona arriva via. Beh, non siamo riusciti a pigliarlo, alla fine siamo andato sul tetto, non siamo più riusciti a pigliarlo. E non vedo chi vola, infatti se no mi sa una vola, mi sa che ce ne fuggirete mangiare. Ma quello lì non era una concurita, era di quei pappagalli grandi grandi, di quelli che parlano, che mettono sul piedistallo, di quelli dietro. Ma lo sai che mi ha detto quello di fianco a me, che quelli che c'ha coso, Alessandro, sono intelligentissimi quei pappagalli, imparano anche a parlare. Tutti i versi degli altri uccelli fanno, quindi sono tremendi. E gli è fuggita la femmina di quello lì. E allora gliel'ha comprato un'altra, però è troppo piccola, capito? Però quelli che c'ha Alessandro, vedi che sono intelligentissimi. Non l'hai visto quello che stava da tutto 300 euro in gabbia, che è tipo voliera, più due di quegli uccelli lì. Lo so. E io, boh, non è per pagare, non è che mi piacciono tanto. mi piace un bel merlo indiano, perché quando lo senti parlare il merlo indiano è favoloso. È grosso, e chissà quanto questo merlo indiano. 350 euro da piccolino. E infatti, e tu lo devi imparare tu a farvi da. Non ho mica meno, sai come l'ho insegnato, ho registrato le parole. Lui le sentiva, non so come faceva con la testa, girava la testa come sentiva a parlare, una bassa e una bassa. E beh, dico. Dice che lo copriva sempre la notte, no? Poi la mattina toglieva il lenzuolo da sopra e gli diceva ciao, buongiorno, come sta, Checco? E lui non diceva mai niente. Una mattina ci toglie il telo e dice buongiorno. Cazzo, ci è rimasta secca. Dal giorno che ho visto che parlava così ci stavo un bel sopra, non uscivo da casa, parlavo un bel, cercavo di dire ciao Checco, come stai? Poi ha cominciato a fare il bacio, faceva una volta, dice che arriva con l'amica, mi dà un bacio e lui faceva. Adesso poi quando diceva dagli un bacio che lui. Ehi, perché sono intelligente. Impreso. Però al contrario del pappagallo, il berlindiano ha ragione, ti fa quel discorso. Capito? Invece il pappagallo ripete solo. Infatti. Comunque quel tipo che c'ha Alessandro, quelli dice che sono intelligentissimi. Ma non devono essere selvatici, perché se sono selvatici un tipo manca vicino, si sbattono la gabbia. Lo so, tra piccolini li devi avere. Vabbè, infatti anche Alessandro me l'ha detto che parlavano, che possono anche parlare, in qualche caso dice che hanno parlato, però praticamente quelli che parlano brutto sono quelli grandi, quelli che stanno sotto gli stanno con la cartella attaccata alla zampa. Quelli non si possono muovere di un millimetro, tipo varanzi, devi fare sempre per me così, con la cartella attaccata. Allora. Ma così mi piace tenere gli animali poveracci. Ma quello che c'è vedo altro, mi ha ucciso, io mi ha risato, e la zia va in suma vendiamo. Si cazzava buco, si chiama Valissimo, e un giorno gli ho detto come ti chiami lui? Alessio. Come? E lui, Alessio, si è incazzato. E dove ha perso le bici a dare risate. Poi gli avevamo insegnato la buona di Giancarlo, ti chiamavo Maresciallo, Maresciallo, lui si è incazzato una russa. Perché in realtà che una parolaccia dopo Maresciallo si è incavolato Giancarlo, questi siete voi che l'avete segnato. Eh beh sì, Maresciallo coglione. E poi faceva la 500 la porta quando chiudeva